Ciao, sono Claudia Cole. Negli ultimi anni ho ricevuto il regalo di poter visitare i missionari di Don Bosco e i progetti del VIS in Africa. E ho capito che non c'è pace senza giustizia. Non c'è giustizia senza amore. Il sostegno a distanza è un gesto d'amore che rende il mondo più giusto e che costruisce la pace. Sostieni anche tu, come me, un bambino a distanza. Per informazioni telefona al numero verde 800 123 456. VIS. Un mondo possibile.